lo stile che ti inganna, ti intrippo con i discorsi, non ti dico la balla. Lo stile che alla fine esalta, esalta te, esalta me, esalta la tua cazzo di banda. Banda, banda, io ci porto la mia mandria con la doppia H, sta roba qui comanda. Tu che cazzo vuoi comandare? Ma lascia stare, se li pop un comando, tu stai già per scappare. Ascolta me, fai quel cazzo che ti pare. Vuoi rappare? Non vuoi? Non me lo venire a raccontare. Forse è meglio non parlare, resta solo ad ascoltare. Non mi faccio problemi, perché ho lo stile letale. Oh, dici che mi vuoi superare, ti offro un Red Bull così inizia a volare. Vedi le onde sopra il mare, non ti emozionare. Dai, fatti coraggio, ti devi buttare. Ti sto addosso, finché non ti vedo morto, lo so, non ti incazzare. Se ti ho fatto un torto, sono bastarda, e lo faccio finché posso. Ti prendo per il culo e non te ne sei ancora accorto. Ti sto addosso, perché è quello che voglio. Ti sto addosso, come la china sopra un foglio. Sì, ti sto addosso, perché prevale l'orgoglio. Siamo troppo diversi, siamo come staglia e olio. Ora ti chiedi perché la gente si stupisce, perché vai a raccontare che nessuno ti capisce. Adesso so come la gente si ferisce, uccidendo i cobra, stigolandoli con le bisce. Parlo troppo dell'hip hop e mi dici che ti stresso. Mi confessi che ti sto sul culo e mi frequenti spesso. Esci con un singolo, te ne fotti del resto. Ma anche se fai un disco non ti ascoltano lo stesso. È inutile che mi dai della sfigata, non distingui una rima baciata da un'alternata. Mi dai della secchina, ma quest'anno mi han bocciata. Nemmeno so questa cultura dove è come nata. Se ascolti questo pezzo penso che ti prendi male. C'è chi nasce per rappare e chi per cazzeggiare. Ma vedi, ognuno è destinato alla sua sorte. Aspetteranno il mio disco in attesa della tua morte. Ti sto addosso, finché non ti vedo morto, lo so, non ti incazzare. Se ti ho fatto un torto, sono bastarda, e lo faccio finché posso. Ti prendo per il culo e non te ne sei ancora accorto. Ti sto addosso, perché è quello che voglio. Ti sto addosso, come la china sopra un foglio. Sì, ti sto addosso, perché prevale l'orgoglio. Siamo troppo diversi, siamo come staglia e olio. Sono solo rime, vuoi parlare, siete bravi. Sei un animale, perché quando mi vedi sbavi. Per fortuna sostenevi che li proclamavi. Nella teoria sì, in pratica non lo dimostravi. Non fare lo spasso solo perché parli in dialetto. Pure così non sei riuscito a portarmi a letto. È inutile che piangi perché non ci sono stata. Non ti vergogna, fatti una che c'è impegnata. Se poi ti appiccichi non ti caga nessuna. Ora cavi di claim e ti chiami sanguisuga. Non sai più come fare, pensi che la vita è un dramma. Se poi non ci stanno vai a dirlo alla mamma. Mi dici facciamo pace, organizzi un'uscita. Poi mi fai chiamare dall'amico dell'amica. Ti vedo sempre solo ma soffri di solitudine, perché ormai due di picche è diventata un'abitudine. Ti sto addosso, finché non ti vedo morto, lo so, non ti incazzare. Se ti ho fatto un torto, sono bastarda, e lo faccio finché posso. Ti prendo per il culo e non te ne sei ancora accorto. Ti sto addosso, perché è quello che voglio. Ti sto addosso, come la china sopra un foglio. Sì, ti sto addosso, perché prevale l'orgoglio. Siamo troppo diversi, siamo come staglia e olio. Ti sto addosso, finché non ti vedo morto, lo so, non ti incazzare. Se ti ho fatto un torto, sono bastarda, e lo faccio finché posso. Ti prendo per il culo e non te ne sei ancora accorto. Ti sto addosso, perché è quello che voglio. Ti sto addosso, come la china sopra un foglio. Sì, ti sto addosso, perché prevale l'orgoglio. Siamo troppo diversi, siamo come staglia e olio.